questo punto insomma lascio la parola a Cristina Morini, che tra i creatori e le creatrici di City of God, che è l'esperimento insomma di free press di cui si diceva prima, ma insomma dirà sicuramente meglio lei. Sì, anche qui stiamo dentro un contesto di pratiche, se vogliamo, no? Quindi quello che può essere interessante è questo, pur tenendo conto delle differenze rispetto ai risultati ottenuti in Francia con le lotte sul CPE, però come dire, anche questo esperimento fatto a Milano è interessante, stiamo ad oggi lavorando all'acremente per l'uscita del numero 4 di City of God, ne sono usciti altri 3 dunque, il primo dei quali è uscito nel dicembre scorso in occasione dell'ultimo grande sciopero fatto dai giornalisti italiani, come dicevi tu nell'introduzione, legato allo sciopero alle rivendicazioni e alle battaglie che c'erano sul tema del contratto nazionale di lavoro. Un contratto nazionale di lavoro che si era molto imperniato sulla questione del lavoro precario, detto che tra i giornalisti italiani 2/3 sono al di fuori di qualsiasi stabilizzazione con le forme più varie, alcuni di loro come dire, hanno anche situazioni di assolutamente favorevoli, ma il grosso dei giornalisti italiani si è un po' scoperchiato con questa piattaforma rivendicativa finalmente a condizioni di reddito, di assoluta mancanza di diritti è chiaro, ma di reddito spaventosamente basse, no? Hanno cominciato a girare una serie di cifre che sono assolutamente reali, pagamenti a pezzi, a riga, quant'altro. Allora, questo era il contesto, scioperi per il contratto nazionale di lavoro, al centro del quale c'era questo ragionamento, e detto che a Milano siamo fortunatamente in presenza di quello che è, se vogliamo, un grosso incubatore, un grosso laboratorio di ragionamenti sulla precarietà, che è quello della May Day, no? Quindi anche questo ci ha aiutato. In più abbiamo cercato, in maniera propedeutica all'uscita di City, di fare una serie di incontri che noi abbiamo immaginato come dire, sollecitazioni di processi di soggettivazione, no? Da parte di queste realtà di lavoro cognitivo, i lavoratori della conoscenza, abbiamo cercato di farlo in modo trasversale ad ambiti diversi, quindi non solo i giornalisti che erano in quel momento interessati dal rinnovo del contratto di lavoro, un rinnovo del contratto di lavoro che puntava anche in teoria a allargamento di garanzie, ma i ricercatori precari, i lavoratori dello spettacolo. Detto che siamo a Milano dove l'aspetto del lavoro cosiddetto immateriale, anche qua ci manca, come possiamo dire, una capacità definitoria che metta un punto, no, su come li chiamiamo, di che cosa stiamo parlando, comunque diciamo così, dove insomma vediamo che il lavoro nel terziario, nei media, nei servizi, nella ricerca cresce diffusamente dal punto di vista delle unità produttive e degli addetti, mentre viceversa scende quello che è dal punto di vista anche di unità produttive degli addetti, il lavoro materiale. Quindi, se vogliamo, un laboratorio di un contesto che molto si prestava a questo genere di ragionamento. E allora, detto che lì c'era, se vogliamo, una potenzialità, un'energia capace di riflettere e di fare qualcosa sul tema, E detto che poi la questione, diciamo, della comunicazione non è che manchi al movimento, adesso se pensiamo ad Indie Media è stato, come dire, però quello che si è voluto fare dicendo i giornalisti precari innanzitutto, ma in collegamento assoluto con tutte le realtà di lavoro precarie che dentro l'incubatore della Mayday si riconoscono, no? E quindi se vogliamo una disponibilità di mettere così in comune, se vogliamo, delle capacità, ma capacità ne arrivavano anche dalle altre parti, quindi e storie e ricchezze, no? Quindi, e di farlo però dentro la dimensione di un free press, libero, quindi in un certo senso certamente nei contenuti, ma distribuito in maniera, diciamo, più indistinta nei metro a tutti, quindi cioè dentro una dimensione che non andava soltanto a quelli che potevano essere i meccanismi naturali di trasmissione del movimento, ma l'intento era quello di uscire dall'ambito, no? Questo era soprattutto distribuirlo nelle metropolitane al posto del free press normale che le persone trovano o si aspettavano di trovare normalmente nei contenitori, giocando su questo meccanismo di deturnazione, per cui abbiamo assistito a delle scene di persone che aprivano il giornale e si trovavano contenuti perfettamente diversi. Nel portare avanti questo percorso avevamo anche usato, no, a proposito della questione definitoria, il termine, no, della classe creativa cui si ruba l'anima al minor prezzo possibile. Tengo a precisare che questo termine di classe creativa lo avevamo usato per tutto l'aspetto soprattutto dell'eccedenza, perché poi ciò che Florida ci dice e altri sul tema, come dire, è un po' un terreno scivoloso per certi versi. Però questo aspetto dell'eccedenza implicita nel concetto e che non a caso con questo progetto veniva esplicitato, cioè tu finalmente tutto ciò che di te veniva usato precarizzandoti e devalorizzandoti ai fini produttivi, in quel momento lo stavi usando per creare conflitto ed immaginari diversi. Quindi in questo senso il termine è stato usato. Quindi dentro appunto questo contenitore della Mayday, che fino ad allora era stato, se vogliamo, soprattutto un momento di autorappresentazione fondamentale, importantissimo, ma all'autorappresentazione ci si era un po' fermati, con l'idea di questo giornale collettivo, no? Che metteva insieme tutte le voci delle realtà precarie, chi ci aveva voglia di partecipare, come dire, diventava un momento di presa di parola, qualcosa di più, e come dico soprattutto con questo aspetto interessante di provare ad allargarsi al di fuori dei circuiti. Tra l'altro tutto questo all'interno, come dire, di un'altra invenzione che è stata quella della cospirazione precaria, dell'intelligence precaria, che sottostà ed è fondamentale per mettere in moto questo processore, no? Cioè l'idea che tu che sei precario del comune, come all'interno della ricerca, come appunto in un giornale, e sei precarizzato all'interno di questi contesti, attraverso il meccanismo dell'intelligence precaria, della cospirazione precaria, raccontando ciò che ti accade, sei in grado di precarizzare a tua volta il tuo precarizzatore, mettendolo, come dire, in una situazione di difficoltà, perché in qualche maniera sveli ad altri quelli che sono, quelle che sono le strategie che vengono applicate per metterti in quella situazione. In questo senso, cosa che ho già ripetuto quando ero venuta qui a Va qualche tempo fa, questo giornale è stato inteso da noi soprattutto come incubatore politico, cioè come un luogo, appunto, un processore, detto che la frammentarietà del che la precarietà implica, no? E che porta sul territorio, non ti consente più di avere delle situazioni dove tu ti ritrovi. Ma nella nostra idea forse era proprio questo giornale che poteva consentire di creare quei collegamenti che invece non sono più possibili, perché appunto il luogo di lavoro stabile non c'è più e siamo tutti sparpagliati in giro. E tra l'altro quello che era molto importante è che tutto ciò si cercava e si è cercato e si cerca e si cercherà di farlo cercando di smuovere tutto l'aspetto degli immaginari, no? Con un linguaggio diverso, mettendo in luce degli aspetti che, voglio dire, non volevano fare di questo giornale il bollettino della triste storia dei precari, come dire, la messa insieme di una serie di storie della sfiga, ma piuttosto un giornale che è in grado di inventare linguaggi adeguati ai desideri che ci sono e che appunto restano dispersi oppure asserviti alla logica del capitale. Quindi cogliere questo spazio vuoto di desiderio era soprattutto questo. Oltre a questo aspetto esiste dentro l'idea, dentro la pratica che stiamo cercando di portare avanti con questo giornale, l'idea di fare anche un lavoro culturale, di cui a nostro avviso c'è un assoluto bisogno ed è appunto anch'essa una pratica. Perché appunto l'informazione mainstream, le forme teorizzate proprio dell'informazione contemporanea hanno un ruolo assolutamente determinante dentro i processi di governance, qui vi sto dicendo soltanto una cosa banale, no? Per cui tutti i meccanismi di controllo e se vogliamo di repressione attuali passano soprattutto da lì. E quindi l'intento di City è anche quello di smuovere in questo senso, no? Quindi luogo per in qualche maniera rispecchiarsi, incubatore di desideri e di immaginari anche a livello politico, no? E propositivo, e anche un tentativo di essere appunto un processore che mette in luce argomenti, fatti che scompaiono, prova in un certo modo a smuovere una forma di attundimento mentale che tutti subiamo attraverso l'informazione e offrendo appunto nuove chiavi interpretative. Tutto questo certamente con nessun intento di porsi, come possiamo dire, come se lì ci fosse di mezzo un'avanguardia, no? Che sta in qualche maniera portando avanti quella che è la strada da perseguire per tutti, ma essendo completamente interni ai processi, perché tutte le persone che hanno collaborato e collaborano a City sono completamente all'interno di ciò che poi descrivono. Tra l'altro, come dire, tutto questo ragionamento qui sul lavoro culturale si sposa da vicinissimo con il ragionamento sulla formazione, perché l'abbassamento, come dire, del livello culturale è assolutamente collegato da un lato certamente a ciò che viene proposto continuamente dal circo mediatico, ma sicuramente anche da tutto il lavoro che viene fatto sul tema della formazione, abbassando completamente e ridimensionando quella che è l'offerta formativa e, come dire, soprattutto dimensionandola ai fini produttivi. Quindi in un certo senso City avrebbe anche l'obiettivo di aumentare, se vogliamo, la consapevolezza dei livelli della propria potenza, no? Diciamo così un po' ambiziosamente, no? Cercando anche di creare dei collegamenti il più possibile dispersi. quello che io dico, quello che diciamo è che in realtà questo che è stato un esperimento, il massimo sarebbe che potesse farne germinare molti altri, da poter mettere in collegamento, no? In modo tale da creare davvero una rete diffusa sul territorio, prima di tutto per conoscere, no, più storie possibile e connetterle, e poi, come dire, per darci ancora più forza e potenza in questo senso. Perché viceversa ci resta assolutamente soltanto quella che è la lettura, come dire, che quotidianamente ti viene fornita dalla Tredipendenza oppure dalla Repubblica, no? Che non fa altro che spingere sui temi della sicurezza piuttosto che dei cataclismi, no? E genera tra l'altro un senso di impotenza tutto questo, che non fa che amplificare una tendenza ad affidarti, no? Ad affidarti ad una rappresentanza. Se questo appunto è il piano, direi, di ciò che, lavorando sulla comunicazione, una comunicazione che vuole essere assolutamente interna al ragionamento politico, noi abbiamo cercato di fare, quello che adesso a Milano e anche forti dell'esperienza di Siti, no? E ragionando e venendo al 9 e ragionando sul 9 dintorni, secondo me sarebbe importante fare, secondo noi sarebbe importante fare, ed è a questo punto un piano più strettamente politico, è come dire, detto che si sono anche provate ad agire delle forme di alleanza, se vogliamo, o di interlocuzione con i sindacati piuttosto che con attori istituzionali. Nel caso per esempio dei processi che dicevo che sono stati propedeutici all'uscita di Siti, noi abbiamo cercato anche di coinvolgere la Federazione Nazionale della Stampa, che era impegnata in questa vertenza contrattuale, una vertenza contrattuale che tanto puntava sul precariato, cercando una forma di collegamento, no? E mantenendo assoluta autonomia, volendo mantenere assolutamente autonomia rispetto al sindacato in senso stretto. Però abbiamo cercato di vedere se erano possibili delle forme di interlocuzione. Ora, in questo clima più che mai, secondo me, con nel dopo elezioni, il governo di centrosinistra, credo di poter dire che questo genere di esperimenti non funzionano. Quindi credo che il tema forte dell'autonomia dei movimenti, anche in termini appunto non soltanto di comunicazione eccetera, ma propositivi dal punto di vista diciamo delle piattaforme politiche, vada assolutamente ripreso. Da un certo punto di vista devo dire che in questo periodo ho ripreso in mano esempi di lotte che appunto in Francia sono state fatte, e non soltanto le lotte del 2006 che venivano citate prima, ma per esempio le lotte fatte dagli intermittenti a partire dal 2003 sono state e sono, secondo me, a tutt'oggi un esempio interessantissimo. Forse ci si arriva per avvicinamenti lenti, però gli intermittenti sono, opponendosi ad un progetto di riforma che li riguardava, riusciti a elaborare una piattaforma rivendicativa assolutamente interessante, che ha al suo interno il tema della formazione, che ha al suo interno la continuità di rete, piattaforma rivendicativa che poi, come dire, era tale, di tal peso, che poteva anche essere estesa ad altre categorie di lavoro. Ora, io quello che mi domando, è detto che nel movimento non sono mancate delle ipotesi, penso al tema della flexicurity, penso alle discussioni sul reddito che tante volte sono state affrontate, ma quello che mi domando è, e anche alla luce di questi sforzi comunicativi che abbiamo fatto, perché non dotarci di piattaforme simili? Cioè, a partire da dopo il 9, ragionare perché, e non più soltanto a livello teorico, cioè c'è la proposta di Tizio Caio Sempronio, stimabilissime, poi magari interne ai movimenti stessi, no? Che ci viene fatta sul tema della continuità di reddito, sul tema dei servizi sociali, sul tema dei bisogni collegati al territorio, ma perché non agire un processo, una pratica anche qui, che è a partire da bisogni che vengono direttamente individuati dalle singole realtà e con l'obiettivo che questa piattaforma sia il più trasversale possibile, no? E tutta la difficoltà del caso, perché l'ipotesi degli intermittenti riguardava loro, e questo chiaramente semplificava perché si trattava di un settore, di un segmento. Però io dico, ed era una cosa appunto sulla quale mi sono interrogata e vorrei proporre qui, perché non cerchiamo di fare la stessa cosa, a Milano per esempio è una cosa che vogliamo provare a fare, a partire dalle realtà di lavoro stesse, quindi che questo genere di proposta di piattaforma sorga dal basso, dalle realtà stesse, e venga poi proposta in qualche maniera, forma, eccetera, eccetera, alla discussione, no? In maniera forte. Io penso che questo sia, detto che forse ambiziosa, ma assolutamente è necessario, cioè penso che non è più possibile nessun meccanismo di affidamento, tantomeno, ma nemmeno di alleanza, cioè in questo senso parlavo della necessità di ritornare, ma concretamente, alla questione forte dell'autonomia, autonomia nella comunicazione, autonomia nella proposta. Credo che sia questo a cui dobbiamo guardare. Oppure, come dire, altro tema è quello di aprire il più possibile contraddizioni con gli interlocutori che abbiamo, ma in maniera fortissima. Altro tema che mi è capitato di analizzare in questo periodo è stato il fatto che la CGT in Francia ha avviato un dibattito sulla questione della sicurezza sociale professionale. Ovvero, il più grande sindacato francese ha detto che ha già avuto quel ruolo che è stato descritto dentro le lotte del 2006, oggi, e come dire, con tutti i limiti del caso, però va colto il fatto che là sta ragionando sul superamento del contratto di lavoro collettivo, quindi ancorare i diritti della persona, non più i diritti non più al contratto di lavoro collettivo, ma alla persona. È un passaggio, con tutti i limiti del caso, fondamentale, quindi anche qua andiamo a rompere le palle in tutti i modi, le forme e le possibilità, anche attraverso il giornale, infatti noi sul giornale questo discorso, numero 4, questo discorso lo faremo, a chi di dovere che, come dire, fuori da questa logica perdente, passatista, del contratto a tempo indeterminato per tutti, che tra l'altro è un obiettivo inesigibile, e cerchiamo di vedere ciò che altrove, fuori dai confini di questo asfittico paese, si sta muovendo perfino, dico, tra i sindacati. Tutto questo però dentro un'ottica di assoluta autonomia dei movimenti, dalla quale bisogna partire, perché sennò non ci smuoviamo di un passo.